hai comprato la sua concorrenza, aveva fatto pure la batteria di due, lui per tutti, però che non basta. Ma tanto tu vieni che non è che ti sei attenzione. Poi da ragazzi sì, ma non so se mi dà preso lo canta là, non piscina di musica. Come è bestia. Boh, io voglio a calcolo così dentro la pizza. Lo voglio la mia calcolo, ma non ha più mai di un soggiare. Ma io avevo pure vedi il circolizzatore pure compreso, mi vedi se puntate la piscina e ti abbiamo levato tutto lo pieno su stereo. Sì, ma il circolizzatore è un difficile, però la filomena devo legare. Non devo legare, compreso, però questo non lo saggio. Sì, sì, sì. Ma di cosa sono chiamato? Insomma, già mi fa il casero, dai, è un piccattato di più. Bene, bene. Ok, Sandro. Buon appetito e tutto. Ciao, ciao. Ciao. Cava, cava. Avanti, Mario. Vediamo un pochino. A proposito, stiamo installando. Così è stato più bravo. Ho avuto più fortuna. Però, quando una vita ha vinto, non ci sono discussioni. Capito? Niente, bisogna dire sempre vince il migliore, perché purtroppo qui è un gioco di quelli molto costosi e non è facile.